versione di Oscar Giannino. Eccoci qua, benvenuti cari ascoltatori del 24, Oscar Giannino qui alla versione di Oscar. Stiamo continuando dopo la puntata di ieri ancora sul tema degli esodati. A dirvi la verità, sarà una serie di trasmissioni che faremo sul lavoro, perché dobbiamo delle risposte a molti che ci hanno scritto, e anche oggi continuiamo con l'ospite di ieri, Giuliano Cazzola, che è con noi. Buon pomeriggio, Giuliano Cazzola. Un pomeriggio anche lei, gli ascoltatori. Ecco, dobbiamo dare delle risposte, Giuliano, a molte lettere che ci sono pervenute, a molti altri ascoltatori, ma continueremo anche nella prossima settimana, nei prossimi giorni, a occuparci di lavoro. E dico subito, quindi, a chi ha chiesto, ma sentite anche altre campane, certo che le sentiamo. Abbiamo chiesto anche a Cesare Damiano del PD di venire in trasmissione per illustrarci il suo punto di vista e di quella parte del PD che sostiene una visione un po' diversa, insomma, sul tema delle pensioni e della riforma Fornero. Come abbiamo chiesto e chiederemo di venire qui a Taddei, che della segreteria del PD è quello che è responsabile dell'economia e sta elaborando il Job Act, cioè il provvedimento sul lavoro, che in teoria dovrebbe essere approvato dalla segreteria del PD entro il 16 di gennaio, di cui trovate altre anticipazioni oggi sui giornali. Quindi continueremo a occuparcene, anche perché è ovvio, è la prima emergenza nazionale quella del lavoro. Stamattina ci sono già stati i dati aggiornati europei della disastrosa emergenza giovanile e della disoccupazione. Quella italiana continua a salire ben oltre il 40%. La notizia incredibile è che con i dati di novembre la Spagna come disoccupazione giovanile è al 57,7%, batterebbe addirittura la Grecia, anche se il dato greco è di settembre e non di novembre, e la Grecia stava al 54,8%. È ovvio che la lunga coda della disoccupazione proseguirà rispetto a questa ripresa molto incerta che abbiamo nell'anno prossimo, e quindi questa è la prima emergenza. Noi ieri abbiamo iniziato a occuparci degli esodati e devo dirvi che abbiamo ricevuto molte lettere, alcune anche aspre, di contestazione rispetto alla definizione, Giuliano Cazzola mi segua, di esodati. Per esempio ci ha scritto un'ascoltatrice francesca dicendo: gli esodati purtroppo, a differenza di quello che avete detto voi ieri, sono persone che al 31 dicembre 2011 avevano già perso il lavoro ma non avevano maturato alcun diritto, altrimenti andavano in pensione senza subire i rigori della legge Fornero all'articolo 24. Il concetto di esodato, pur essendo complesso e pieno di cavilli, si basa su due premesse, scrive Francesca: aver perso il lavoro prima della riforma, o almeno aver firmato l'accordo di fuoriuscita, e aver appunto accordi con lo Stato, cioè con l'INPS o con le aziende, che in assenza della riforma avrebbero garantito la pensione entro certe date. Ecco, è su queste date che la riforma, continua Francesco, ha provocato allungamenti inaccettabili e sono intervenuti i provvedimenti di salvaguardia. La signora Stefania, per esempio, che era presente ieri in trasmissione, tecnicamente è, a differenza di quello che avete detto voi, un'esodata a tutti gli effetti. Cosa possiamo rispondere, Giuliano Cazzola, a Francesco? Il termine esodati è un termine che è piaciuto ai media, però in effetti si riferisce ad una categoria di persone che, essendo state colpite dai nuovi requisiti della riforma Fornero, hanno avuto l'esigenza, e per certi versi è stata anche riconosciuta, di avere come salvaguardia il riconoscimento delle vecchie regole, quindi la possibilità di dare in pensione con le vecchie regole. Diciamo, il genere è salvaguardati. Gli esodati sono un capitolo di quei che salvaguardati, e sono esattamente quelli che hanno sottoscritto accordi di esodo che si sono sostanziati sostanzialmente in risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, con extra liquidazioni negoziate con le imprese o in modo collettivo, in modo individuale, extra liquidazioni, incentivi che erano ragguagliati al periodo che li separava dal momento in cui cessavano i rapporti di lavoro al momento in cui maturavano il diritto alla pensione. Essendosi spostati in avanti questo il requisito dell'età pensionabile o dell'anzianità contributiva richiesta, questi si sono trovati ad avere tutelato soltanto un periodo di cammino. E qui è sorta appunto l'esigenza di una salvaguardia che a quanto pare insomma lascia ancora degli spazi non chiari, o comunque lascia ancora delle persone che non sono tutelate. Io le consiglierei, peraltro, visto che lei vuole continuare a parlare di queste cose, di sentire l'INPS, di sentire il presidente o il direttore dell'INPS, perché io le dico che oggi ho fatto le mie verifiche personali sulla base delle conoscenze che mi sono fatte in tanti anni di lavoro, e mi hanno confermato che ad eccezione dei 10.000 salvaguardati da Sacconi, il 27.000 coprono tutto il fabbisogno. Ecco, cioè, questa è la tesi dell'INPS, e noi sicuramente, invece che da Cazzola, chiederemo all'INPS, e anche qua avremo la telefonata e le lettere dei nostri ascoltatori. C'è un altro ascoltatore che non solo ci ha scritto ma è anche collegato telefonicamente, che è Diego, che ci chiama da Vicenza, e Diego a propria volta ci ha mandato una lettera nella quale diceva, a proposito di un ascoltatore di ieri, di un bancario, dicendo: no, guardate che anche il collega bancario era entrato nel fondo di solidarietà nel 2009, aveva il diritto certificato dall'INPS, coincidente con la vecchia finestra ante Fornero e ante Sacconi. Poi con la legge Fornero è stato previsto per questi soggetti il prolungamento del sostegno al reddito a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione, che fino a tutto il 2013 ha stanziato le coperture, ma il problema sono stati i ritardi enormi. E questo il nocciolo della faccenda. Diego, buon pomeriggio e grazie di essere con noi innanzitutto. Buon pomeriggio, grazie a voi per avermi chiamato. Volevo collegarmi al discorso di ieri per dire che quel collega, con tutta probabilità, è un salvaguardato dalla riforma Fornero, ma non lo è dalla riforma Sacconi-Tremonti. Siamo un gruppo numerosissimo, perché è quantificabile in circa 12.000 di bancari che credo quasi tutti abbiano ricevuto la conferma della salvaguardia della legge Fornero, ma non hanno la salvaguardia analogamente dagli effetti della legge Sacconi del 2010, quella per intenderci delle finestre mobili. Sì. Per cui si sta creando per molti che maturano i requisiti un vuoto reddituale che può andare dai 3-4 fino ai 15 mesi, soprattutto per le colleghe che matureranno i requisiti che erano stati certificati, ripeto, nei prossimi anni, perché si parla di un periodo che va fino al 2017. E la Fornero, poco prima della riforma pensionistica, emanò un decreto ad hoc per sistemare il pasticcio Sacconi, come lo chiamo io, questo decreto, questi fondi devono essere stanziati anno per anno, e finora, devo dire la verità, ciò è stato fatto, ma viene fatto normalmente in fine d'anno. A dicembre. Per cui, ben che vada, uno sta sulle spese per 12 mesi e aspetta e che poi ci sia la copertura. Se ci sarà l'anno dopo, perché poi di questi tempi, insomma, vediamo che si sta raccattando qua e là. Quindi questo è un problema specifico di 12.000 soggetti, stiamo parlando nel settore bancario. Cazzola, il problema del finanziamento a fine anno, che è un problema generale, come si vede anche questo terrificante incidente dei dipendenti della scuola, risolto con una marcia indietro in cui il governo ha perso un altro pezzo della sua faccia oggi, si deve in realtà alla retroattività degli interventi, visto che gli aumenti erano stati pagati per effetto di accordi sindacali regolarmente sottoscritti. Ma questo meccanismo per il quale si aggrava per i soggetti che vengono interessati alle finestre mobili della legge Tremonti rispetto al diritto di salvaguardia, perché la copertura arriva a fine anno, è possibile mai che non ci sia un meccanismo diverso secondo lei, Cazzola? Ma infatti il meccanismo è quello, secondo me, di regolare i flussi di cassa. Di regolare i flussi di cassa con un'operazione, peraltro, che si può fare con una conferenza di servizi, perché insomma questi sono stati presi a carico dalla riforma Fornero e dai proventi Fornero, passando da 130 a 140, 142 mila, no? E però le coperture ci sono, e quindi mi pare che di capire che sia un problema, appunto, di rapporto fra il Tesoro e l'INPS. E che tutto questo ci porti anche al discorso che si faceva ieri di quel signore che era venuto a dire che gli hanno detto che non c'era la copertura. E purtroppo, però mi pare che se le leggi ci sono, se le norme ci sono, dovrebbe essere più facile ovviare a questi inconvenienti che si sono determinati in un particolare settore peraltro con i fondi di solidarietà che sono garantiti dalle banche. Posso chiedere a Giuliano Cazzola, poi riprendiamo subito il discorso sul tema di cui ci occupiamo, che cosa pensa lui di questa storia per la quale oggi è stato affermato con il marcio indietro per l'esazione retroattiva dei dipendenti della scuola il principio della irretroattività? Lo Stato non può chiedere ai dipendenti della scuola quello che nel frattempo aveva pagato. Naturalmente questo principio però non vale per tutti noi contribuenti, visto che la retroattività è il principio generale oramai delle modifiche delle imposte. Per dirne una, ancora i proprietari di casa non sanno se il 24 gennaio quanto devono allo Stato per il 2013, quindi qui siamo in piena retroattività, che cosa dovranno pagare di preciso per i 2700 comuni che hanno fatto la sovraaliquota. Cosa pensa di questo principio per cui è comunque un bene che la retroattività, almeno per i dipendenti pubblici, valga, e speriamo che valga poi un domani per tutti, oppure no? Lei che pensa? No, guardi, io penso così, penso che lei abbia ragione quando dice che il governo si è già mangiato un altro pezzo di faccia, perché non ha molto senso che il ministro del Tesoro faccia un'operazione, peraltro in conformità a quelle che sono le norme, il ministro della pubblica istruzione si mette di traverso e il presidente del Consiglio dica no, non se ne fa nulla. Cioè il trattamento dei pubblici dipendenti è congelato da anni. Ma non è congelato solo perché non si rinnovano i contratti, è congelata anche l'evoluzione della posizione individuale. Quindi io non so per quale motivo si siano pagati gli scatti nel settore della scuola, però ecco, e per quale motivo peraltro oggi si chiedono indietro, no? Anche se probabilmente me lo immagino. Però la cosa che secondo me si rischia di determinarsi è che gli insegnanti sono gli unici poi a riscuotere gli scatti. Ecco, e questo criterio non so come la prenderà la Corte Costituzionale per tutti gli altri pubblici dipendenti, perché il problema è che il pagamento è avvenuto grazie agli accordi sindacali regolarmente sottoscritti, con cui parte delle risorse per la formazione che venivano meno erano destinate a questo, e il problema è che il Ministero del Tesoro ignorava nel frattempo quello che avveniva e faceva da ufficiale pagatore, e nel frattempo poi in realtà dice ma io faccio un atto dovuto. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha detto ma come, se li hai pagati per effetto di questi accordi? Insomma, un pasticcio che la dice lunga su come funziona l'amministrazione pubblica italiana. Sentiamo adesso l'informazione sulla circolazione stradale, poi torniamo con Giorgio che ci chiama dalla provincia di Belluno. Prego, strade. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati, 16:47, 18 secondi dagli studi Radio 24 qua di Milano. La versione di Oscar, ci occupiamo di esodati e poi tenteremo anche di chiedere a Cazzola un po' di cose sulla riforma del mercato del lavoro in arrivo. Sentiamo ancora Giorgio dalla provincia di Belluno. Prego Giorgio, dica. Sì, buongiorno. Io credo che la riforma Fornero sia stata l'unica riforma seria che sia stata fatta in questo paese in questi anni. Sapevamo tutti che doveva andare a finire così. Sapevamo tutti che questo era il nostro destino, tutti hanno chiuso gli occhi negli ultimi 15, 20, 30 anni e siamo arrivati là, ed è giusto che si arrivi che si sia arrivati in questa situazione. Giorgio, dal punto di vista degli equilibri attuariali, cioè nel medio-lungo periodo dei conti della previdenza italiana, in effetti è in tutti i rapporti internazionali comparati dei sistemi riconosciuto che quell'intervento nel primissimo periodo del governo Monti ha avuto questo effetto. Il problema sono, per così dire, gli effetti collaterali. Cazzola, gli effetti collaterali si potevano prevedere meglio? Il punto delicato della mancata, diciamo, cooperazione lamentata allora dalla Fornero con l'INPS, secondo lei era una melina o c'era sostanza sotto? Cazzo. Ma guardi, secondo me della sostanza c'era, perché gli effetti collaterali non furono previsti subito, tanto che alcune situazioni vennero affrontate e risolte nel decreto mille proroghe di quell'anno, soprattutto la questione degli esodati venne affrontata in quel contesto, perché non era stata, gli esodati in senso stretto, quelli che hanno firmato accordi di esodo, erano stati completamente ignorati dai casi salvaguardati dell'ambito della riforma Fornero, e vennero recuperati nel contesto del decreto mille proroghe, tra l'altro con le stesse risorse, cioè vennero inseriti in un perimetro con le medesime risorse che erano state previste quando loro non c'erano, e questo ha portato poi a dover fare diversi interventi, ne sono stati fatti 5 come ricordava lei ieri, per 11,5 miliardi. Sentiamo Sergio da Fermo, prego Sergio. Buonasera. Buonasera, ci dica. Oscar, buonasera. Dunque, io sono del 52. Sì. Ho perso il lavoro 3 anni fa, era un contratto a termine. Sì. 12 mesi di disoccupazione e poi il vuoto, perché la Fornero ha arrivato a 60 anni, la Fornero ha detto che ero troppo giovane. Ma il percorso suo contributivo alle spalle quanto era lungo? Ecco, avevo 34 anni di contributi, non sì. era 40, però qualcosa a 60 prendevo. Sì. La vecchia legge. Nel frattempo ho avuto un pesante intervento chirurgico che mi ha lasciato un po', diciamo, un'incontinenza leggera ma costante. Sì. E ho fatto domanda di invalidità abbinata ai 34 anni di contributi. Sì. Bocciata con un punteggio di 67, del 67% di invalidità, mentre ci vuole il 74%. A questo punto, a lavorare non posso andarci dove voglio, perché non si può fare nemmeno sforzi più di tanto. Certo. E l'invalidità me l'ha bocciata. E che è previsto per quelli come me? Sergio, sentiamo no. Giuliano Cazzola che cosa riesce a distillare. No, io la valutazione che posso fare è che lei non poteva andare neanche con i precedenti requisiti, perché con i precedenti requisiti ci volevano almeno 35 anni e 61 anni di età, quindi la sua strada, l'unica strada che lei poteva percorrere anche prima era quella che ha percorso dopo, quella dell'invalidità, oppure avrebbe dovuto avere requisiti un pochino più elevati, perché insomma la Damiano prevedeva quota 96 nel 2012 con almeno 60 anni d'età, e lei non li faceva neanche in quel modo lì. Io credo che l'unico consiglio che le posso dare è cercare di fare ricorso per quanto riguarda l'invalidità. Vediamo se il ricorso di Sergio avrà maggior successo. Con Giuliano Cazzola tentiamo di arrivare a quello che fino a questo momento si capisce del provvedimento in arrivo da parte della segreteria del PD con la nuova di Renzi. Oggi sui giornali, ripeto, ne parleremo con Taddei quando ci sarà il testo, ma intanto sui giornali oggi è venuta una specie di prima più concreta precisazione sul fatto di come collegare più flessibilità all'uscita rispetto a un'idea di contratto unico a tutele crescenti, e l'idea sarebbe quella per i primi 3 anni di non fare valere le norme modificate, come anche in questo caso della riforma Fornero, sulla risoluzione dei rapporti di lavoro, per poi invece convergere verso il modello unitario attuale. Ecco, rispetto a questo tipo di scelte cosa pensa Giuliano Cazzola? Ma io penso che sia sicuramente un passo in avanti, però che non può essere il contratto unico, perché non può risolvere questo tutti i problemi che vengono risolti oggi con i contratti flessibili. Se uno deve assumere un cameriere una domenica perché si trova a dover gestire un matrimonio o una cresima o una comunione, deve avvalersi del job on call, del lavoro a chiamata, non è che può usare questo strumento. Se uno deve avere un consulente che gli mette su diciamo l'home page nella sua ditta, gli mette su l'impianto, diciamo, di comunicazione all'esterno della sua ditta, ha bisogno di un consulente e stipula con lui se ce l'ha una partita IVA, non è che può fare. E se uno ha bisogno di una persona per un anno, no? E sa benissimo che gli serve solo per l'anno, fa un contratto a termine. Quindi sostanzialmente questa proposta del contratto unico non potrà mai essere una proposta unica, non potrà mai essere l'unica forma di assunzione, e diventa sostanzialmente una riforma e un alleggerimento del contratto a tempo indeterminato. Però ecco, io mi domando che differenza fa per un lavoratore essere assunto con un contratto a tempo indeterminato che per 3 anni è sostanzialmente privo di tutele, oppure essere assunto con un contratto a termine per 36 mesi, quando comunque il momento della verità ce l'ha in mano il datore di lavoro trascorso in quel periodo. Cioè, c'è un sovraccarico, secondo me, di ideologia in questa vicenda che non mi convince. La replica, perché l'idea del contratto unico, diciamo così, nasce negli anni, tra l'altro, dalle proposte. Sì, ma se lei parla con Boero, con il Tiro, loro dicono che non sono per abolire il contratto a termine. Sì, sì, esattamente, stavo esattamente dicendo quello. Non ha senso. Stavo esattamente dicendo quello, cioè la replica che viene da chi ha introdotto questa formula, guardando ad altri modelli, la flex security danese e così via, era quella del minimo normativo comune, sia per la soluzione, eccetera, eccetera, e poi per la persistenza delle altre tipologie contrattuali. Sì, quindi diventa una riforma del contratto a tempo indeterminato, sostanzialmente un alleggerimento rispetto alla disciplina dell'articolo 18, che va bene, però insomma non diciamo che abbiamo risolto il problema, che abbiamo fatto un'unica forma di accesso al lavoro. E quanto invece al tentativo, che è forte, la convinzione che è forte in una parte rilevante del PD, poi ne parleremo con Cesare Damiano nei prossimi giorni, di dire la riforma Fornero ha commesso un errore rispetto allo stato attuale del nostro mercato del lavoro, è un tappo per i giovani, oltre ad aver comportato tutti i problemi, i cosiddetti effetti collaterali di cui ci occupiamo, dobbiamo di nuovo tornare alla possibilità, perché ha più di 62 anni, di essere flessibili, un disincentivo ma non oltre l'8%. Lei che dice su questo? No, guardi, io penso che allo stato dei fatti è difficile tornare indietro. Io ho presentato da deputato nel 2008 un progetto di legge dove c'era la flessibilità da 62 a 67 anni, l'ho rifatto nel 2009 insieme a Tiziano Treu, io primo firmatario alla Camera, io primo firmatario al Senato. Ma oggi queste cose avrebbero un costo che secondo me non è giusto sostenere, anche se però bisogna mettersi in ordine di idee e di non lasciare le persone affidate a se stesse. Cioè, la sfida che noi abbiamo davanti, poi è chiaro, non è una sfida che si vince una settimana, è far sì che chi perde il lavoro in tarda età ne trovi un'altra opportunità di impiego. Cioè, altrimenti noi facciamo aumentiamo l'età pensionabile, ma nello stesso tempo diventa un aumento solo teorico, in linea con l'incremento dell'attesa di vita, ma diventa un aumento solo teorico perché la gente a una certa età non trova più lavoro. Senta, i tedeschi infatti, che sono sicuramente con l'occhio in avanti con gli stessi reparti, si pongono già il problema del lavoro degli anziani. Cioè, noi dobbiamo lavorare di più su fornire opportunità agli anziani. Ecco, fornire opportunità agli anziani, naturalmente con un mercato del lavoro in queste condizioni è tutto più complicato. Ci crede che arriveremo durante la nostra esistenza in vita, Cazzola, a vedere la riforma di ciò che dovrebbe incrociare domanda e offerta rispetto all'inefficienza dei centri regionali per l'impiego? Noi abbiamo una sfida importante, che è questa garanzia giovani, e peraltro è singolare che non se ne parli. E questa è un impegno, la garanzia giovani è un impegno dello Stato, dei centri per l'impiego, a fornire servizi, non solo posizioni di lavoro, offerte di lavoro, ma fornire servizi. E sinceramente, con la condizione che abbiamo dei centri per l'impiego, sono curioso di vedere cosa succederà, perché è un'opportunità che sarebbe delinquenziale perdere. Mi è sempre sembrato che in realtà i centri dell'impiego sono solo per l'impiego di chi ci lavora, a dire la verità. Comunque, noi ringraziamo Giuliano Cazzola, continueremo a occuparci da diversi punti di vista del problema del lavoro nelle prossime puntate. Intanto grazie a Giuliano Cazzola, a voi che siete in ascolto, continuate su Radio 24, appuntamento con me domani alle 16:30.